Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Scoprire se un cibo è contaminato con una fotografia scattata con uno smartphone grazie a speciali microsfere capaci di svelare la presenza di batteri. E quanto sembrano promettere sulla rivista CS Central Science i ricercatori dell'Istituto di Tecnologia del Massachusetts guidati da Qian Zhang, che ha messo a punto questa metodologia a partire da delle microsfere ideate poco più di un anno fa da un altro gruppo di ricercatori del MIT guidati questa volta da Loren Zarzan e ribattezzate queste microsfere Janus Droplets. Abbiamo chiesto a Giovanna Zappa, ricercatrice dell'Enea e coordinatrice di Metrofood, che è un'infrastruttura di ricerca europea che si occupa proprio di misure nel campo della qualità alimentare, di commentarci questa notizia. Buonasera Zappa, benvenuta. Buonasera. Dunque Zappa, senta, la chiave della metodologia sta in queste Janus Droplets, delle microsfere, dicevamo, con delle caratteristiche peculiari. Quali sono queste caratteristiche? Partiamo da qui. Allora, prima vorrei dire che il test sfrutta una reazione specifica tra zuccheri e proteine che le cellule utilizzano per riconoscersi tra loro. Questi ricercatori hanno sviluppato queste particelle Jano, appunto dal nome della divinità bifronte, che hanno la caratteristica di essere composta come da due semisfere e si realizzano attraverso un'emulsione che si ottiene attraverso due solventi immiscibili. Immiscibili, un po' come acqua e olio. Quindi si formano queste goccioline che hanno una metà più pesante, diciamo, e una metà superiore più leggera. In questo modo queste galleggiano tenendo sempre la parte più pesante verso il basso, no? Si orientano. Sono tutte orientate, giustamente. In questa condizione il mezzo liquido risulta trasparente. Perfetto. Quindi i ricercatori cosa hanno pensato? Che se io pongo al di sotto di questa superficie liquida un QR code e poi fotografo con uno smartphone, se il mezzo rimane trasparente il QR code è vero. Si legge. Altrimenti, se avviene questa reazione di cui parlavo prima, questa reazione specifica tra zuccheri e proteine, perché nella parte superiore queste sfere hanno appunto degli zuccheri, sì, e i ceppi di Escherichia coli, cioè questo batterio che vogliono determinare, si attacca a questi zuccheri, queste, no? Proteine, quindi si attaccano selettivamente, attaccandosi fanno ruotare queste sfere di maniera che c'è un cambio di morfologia, sì, del mezzo, e quindi il mezzo non risulta più trasparente e il QR code non è più visibile. Perfetto, insomma, quindi sferette che galleggiano sulla superficie di un liquido, se in questo liquido sono presenti i batteri, queste sferette si inclinano, smettono di essere trasparenti, io non riesco più a vederci attraverso e scopro quindi che in questo liquido sono presenti dei batteri. Ecco, in che modo si arriva qui, considerato che magari quello che vogliamo analizzare invece è un pezzo di carne? Certo, allora questo sarebbe, per così dire, il sensore, cioè sì, il punto di misura. Chiaramente poi devo mettere il campione nel mio mezzo, quindi preleverò, per adesso diciamo possiamo pensare a un campione liquido, che è la cosa più semplice, e successivamente possiamo pensare a un campione magari solido che è stato immerso in un liquido per un po' di tempo. Poi posso analizzare questo liquido in cui è stato immerso. Comunque dovrò sempre campionare il mio materiale e porlo all'interno di questa camera di reazione. La novità sta nel fatto che appunto lo strumento di misura poi diventa uno smartphone o comunque un sistema per fare una semplice fotografia. Ecco, quindi una grande, diciamo così, semplicità una volta che si è preparata, diciamo, questa soluzione nel misurare il risultato. Tutto questo si riesce, questa è l'idea dei ricercatori, si dovrebbe poter addirittura fare a casa. Ecco, come la vede? Allora, io la vedo sicuramente con un interesse, perché rendere disponibili dei sistemi di misura direttamente per i consumatori è un aspetto molto interessante. Soprattutto, diciamo, rispetto a quei casi in cui c'è un rischio di pessima conservazione, perché questo è lo scenario più importante. Quindi non dobbiamo pensarli che il consumatore si mette a verificare la rispondenza ai requisiti normativi di un alimento, ma possiamo immaginare che il consumatore possa evidenziare un problema di contaminazione appunto durante importante. La fase di conservazione, quindi evitare una tossinfezione magari ai propri figli. Ai propri figli, ecco perché quali sono i limiti di questa metodologia, anche quando dovesse essere pronta, diciamo? Allora, i ricercatori dicono che ha un limite di detection, di rivelabilità di 10.000 cellule, diciamo così, per millilitro. Quindi solo quando il cibo è molto contaminato questo metodo, certo, per il momento funziona. Quando la proliferazione è già evidente, no? Quindi la crescita microbica è stata già evidente, mentre il limite di legge, di regolamento, è 10.000 volte più basso. E poi ci può essere un problema di contaminazione da parte dell'utilizzatore del test o da parte di utensili che vengono impiegati per, certo, per levare i campioni. Grazie, va grazie bene. Mille Zappa. Grazie, arrivederci. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani, buona serata.